S7000 con l'MB più 5. Giulio? È sul 12, Claudio. Sul 12? Sì, io lo sento parlare lì. Sono sul 12, cosa vuoi ti dico? Come va questa modulazione, Marco? Ti piace? Bella forte. Claudio, se io te la faccio sentire, non lo so, se vuoi te la faccio sentire. Sembra che se sei dentro un barattolo sirio vuoto, però. E cosa vuoi da una radio del 1970? Cosa vuoi? Ancora, aspetta che abbassiamo il microfono. Ecco qua, lo mettiamo un pochino più basso. Più di questo non posso fare. No, il microfono alza, se no sparisci, alza tutto. Stavo ascoltando prima quando l'avete regolata. Però la timbrica è un po' strana, Claudio. Se vuoi te la faccio sentire, te la mando là. No, non la mandare niente, già sono. Allora, guarda, i toni, ho regolato leggermente i toni. Va meglio. E lasciala come era in origine, dai. Tu lasciala come te l'ha detta Massimiliano. Può darsi che in questo baracchino non renda la timbrica, capito? In questo però, perché da lui arriva già meglio. Ti ho detto 10 baracchini, 10 ricezioni diverse, 100 baracchini, 100 ricezioni diverse. Vabbè, allora, no, lascio stare così, non mi interessa, no. Non è che debba fare miracoli questa radio, l'ho presa perché mi piace, perché è una radio che posso usare così a livello locale, quindi ottimo per la truppa. Allora, i toni erano così, ecco qua, così sono tutti chiusi, i toni così sono tutti chiusi, o va meglio secondo te o è peggio? Non te lo so dire, dai. Non ho l'orecchio così allenato, Claudio. Vabbè, dai, non lascio stare così, non me ne fotti così al massimo intanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Massimo di microfono, mica che a metà, lo posso anche sollevare ancora, guarda. 1, 2, 3, 4. Oh, Natali, come ti sembra? Attimo che sono impegnato. Vabbè, lasciala come la prima, col macchino 8, 9, i toni chiusi, dai. Poi in distanza magari ti sanno dire meglio. Ma torno a dormire, dai, ciao. È andato, è tornato. Marco Lino Gondola, qua dormito, sì. Sì, praticamente il corpo si è seduto qui, però il cervello è spento ancora. Ho capito, ce l'ha portato, l'hai detto? Niente. Cazzo, che gente di merda, cazzo, per carità. È gente di merda che esiste, bravo. Cioè, come con la pandemia sono rientrate le portanti, così è. Assurdo, ma veramente, non ho parole. Tutto è compiuto. Ma io dico che gusto ci prendono, è un gusto mettere le portante. Ma io non ne vedo portante. Adesso non ce n'è. Ce ne sono, Marco, c'ho il telefono spento. Cosa c'è, il telefono spento? Ho detto che ore sono, perché ho il telefono spento. Poi ti dico cosa mi è successo, che mi ha chiamato un gestore del lavoro, un attimo, che ne so. Mancano tipo 17 minuti all'una. Allora, praticamente mi ha chiamato come si chiama? Un operatore della Vodafone, no? Dicendomi che c'era questo aggiornamento che da 20 giga, che avevo passato a 100 giga senza pagare niente, anzi pagavo anche di meno, pensa, ok, fatto questa cosa qua, tutto gratuito, fatto questo qua, mi ritrovo 100 giga, mi sono ritrovato gli 8 euro, cioè con il telefono, in più, io c'ero in meno. Stamattina ho chiamato e ho detto che volevo la mia promozione. voce portante quando parla lui. Il dottore lo facciamo? È quel che c'è ben chirurgico, è dalla terroccia. Sto cambiando il gestore subito. Da domani ho cambiato il gestore subito. Luca, non ho capito niente perché la portante te l'ha messa e ti ha coperto più di mezzo passaggio, dai. Magari è quello di che bombolino di sciaroppa. Non lo so chi è, ma vabbè, tanto sono dentro malacchio, può fare luci e basta. E quello lì è segnato, quello è già è quello lì. Perché prima qui non arrivava il segnale, quel portantista dalla tua dolce. Ebbene, non si può organizzare qualcosa e fargli il tondino, no? Sono entrato, però ci sono. La radio è entrata qua. Ho fatto le connessioni all'MBP5. Ma sempre la stessa radio è questa? Sì, sì, sempre la stessa radio. No, adesso sei tu, cazzo, adesso sta andando bene. È una bella radio, bella chiara e forte. MBP5 è questa? Sì, MBP5 con i toni a 1 e il Mickey Gain a metà. Più di questo, vabbè, se senti rumori adesso vabbè tutto acceso eccetera, ma poi già chiudo la porta. Comunque va bene, no? No, poco fa eri troppo chiuso, un asino eccetera, diciamo era un microfono un po' strozzato, questa sta andando bene, chiara, forte, non so se sia più forte dell'altra, se vuoi te lo posso dire, aspetta un attimo. Ciao Riccardo, ti ascolto stamattina, cosa hai combinato? Adesso ti ascolto, Da quasi 10 watt sto baracchino, 8 watt modulati 10. Adesso c'è 9 più 50, claro. Ti sei saltato un po' di segnale. Oh, quando l'ho acceso praticamente evidentemente non stava andando, stava andando 1,5 watt, poi si è rimesso a posto, perché era anni e anni fermo, capito? Adesso lascio tutto il giorno acceso, tutto bello pulito, nuovo. Non c'è un graffio. No, già sta andando bene la radio, magari qualche regolazione si può provare a fare, alzare un pochettino, rispetto all'altro è un po' più basso, comunque la radio è forte, e poi magari provare se ne ha interesse a farti la regolazione più fine della modulazione, però già va bene, dai. Ok, ho messo sull'antenna, clame. Registrato il break, va bene. No, non l'ho collegata, l'unica cosa è, lo sai cosa è il problema, qua. Infatti da solo non ce l'ho fatta a sollevarla, l'ho messa tutta l'interno laggiù, però bisogna metterla in cima alla punta del palo, perché sennò non puoi mettere il radialini, siccome c'ha 5 radiali con l'antenna. Adesso devo vedere domani o quando, la sollevo un pochettino di più, la faccio salire in cima, perché cioè, rimane appena piegata perché non sta appoggiando bene, l'ho messa adesso provvisoria, dai, almeno sul palo, poi vi faccio la connessione quando ho tempo la collego, ma è manna mia, è enorme, cazzo, non me la ricordavo così grande, arriva quasi all'altezza della manta, ma non puoi mettere quante. Addirittura, meglio la già, vabbè. Gianni Capri 2, vieni avanti. Certo, mi stai facendo sordo, oppure è troppo alto, se, ma ti stai aiutando di potenza. Gridi troppo, Claudio c'è meglio di te, gliel'ho messo a 5, mettilo a 4 Gianni, a 4 mettilo, i toni lasciali come sono, mettilo a 4. E va bene così, cazzo esci troppo forte tu, Claudio non grida, cazzo tu gridi troppo, minchia, ciao, guarda, l'ha 48 con il MB più 5, guarda quanto sto facendo bene. Eppure è troppo forte, infatti lo stavo per dire io, o ti metti un po' più lontano, se no disturci, cioè, se ti avvicini troppo al microfono e alzi troppo la voce, Gianni comunque ben sentito, distorce, è un bel forte, ma il segnale ha migliorato anche il segnale, se 9,10 quel picchi a 9,15, è sempre no, quasi 9,10. Dava pochi watt, adesso sta dando circa 10 watt, 5 watt modulati 8 watt, dai, va bene, grazie. funzionaria, non ce n'è? Perfetto. No, vabbè, sono contentissimo Gian. Mi piaceva questa radio, hai fatto bene, dai, a darmela. Adesso me la pulisco tutta bene ed è perfetta, mi piace, dai, ok, avanti. Chi c'è poi? Luca riprendi. Aspetta, saluto a Riccardino. Ciao Riccardo, ben sentito. Piano 9 stai arrivando Riccardo. Riccardo, come ieri, molto vicino al microfono perché c'è il QRM è molto alto, anche se il segnale è forte, sei quasi poco più di nuovo, se dai radio 5, però insomma c'è un po' di fruscio ogni tanto, entra, devi avvicinarti come ieri al microfono, mentre coso Capri si deve allontanare se no mi fa sordo. Ma perché lui grida? Se non gridasse il problema è diverso, capito? Vedi adesso che c'è più silenzio, come è bella la radio. Claudio, migliore adesso. Non so cosa, se tu abbia spento le cuffie, l'autoascolto, ma è migliore. Molto migliore. Sì, c'era troppo casino, c'era, dai. Ho chiuso la porta, adesso va bene. No, ma mi sto ascoltando in cuffie, mi piace la modulazione, dai. È buona, va bene. E sono a metà potenza, non sono al massimo, capito? Marco. Comunque te l'ho mandato un pezzo di 3-4 secondi, così ti fai l'idea, no, perché sai, quando si ascolta in cuffia comunque stai parlando tu stesso, quindi già per via ossia ti arriva la voce alle orecchie, però sentito da altri fai un'idea migliore, dai, non ti è arrivato ancora comunque. Sì, ma io mi fido anche molto di Roberto, Massimiliano me l'ha regolato, va bene, dai, è una radio anziana, una radio adattata, quindi non è che posso pretendere molto, però mi serviva così per fare due chiacchiere, va bene, dai. Se vuoi migliorarla quando c'è 5 minuti di tempo ci spostiamo a Claudio e vediamo un po' le tonalità, se tanto c'è il controllo di tono, così è un più 5 questo. Sì, vabbè, ma lo devo tenere a 1 perché se lo metto più alto mi smorza, me la fa cupa la modulazione. Infatti si fa un compromesso, tanto c'è Mickey Game pure la radio. Sono contento, sono arrivato a Vienna. Vienna? Ma non l'hai salutata la regina? La figlia, ha detto che viene a trovarmi. Ascolta, ma gliel'hai detto che sei? Tu glielo devi dire, tu le devi dire, io sono Pitbull da Porto Torres, amico di Chihuahua, e vedrai che già viene. Ti piace comunque questa modulazione, dai, a parte il segnale che è un po' più basso, sto andando con 8 watt, ma già va bene. Sto dicendo che fa proprio bene, la modulazione è bella prepotente, di quelle, come dico io, ignoranti, di quelle belle tecce, è inutile, la tua modulazione va bene, fa proprio bene. Hai ragione Giulio Donna, perché mi devo comprare un corno di bue per parlare con i baracchini, se no è un casino. Vabbè, dai, facciamo girare. Riprendi, roba, e vai per Capri, vai. Una domanda a Claudio, quella parecchio c'ha anche il Mickey Game? Sì, ce l'ho a metà il Mickey Game. E ce l'ho a metà massimo il Mickey Game, il vostro giorno, roba. Ce l'ho a metà il Mickey Game. No, lo sai perché ti sto facendo questa domanda? Perché tu c'hai il Mickey Game nel microfono, il Mickey Game nella radio, si possono fare i compromessi per dire abbassare, per dire il Mickey Game della radio e sollevare poi il microfono, oppure viceversa, vedere se ti cambia la modulazione, perché l'MB più 5 più amplifica più strozza, per dire ti solleva altre frequenze, e per cui il lavoro lo puoi fare al contrario. Vabbè, lo facciamo con calma, perché c'è quello di difetto, l'MB più 5 come amplifica di più, ti, per dire, ti solleva gli alti e ti abbassa i medi o viceversa, però se questo lavoro lo fai al contrario, sollevando il Mickey Game della parata e abbassando quello del microfono, riesci a compensare questo difetto, mentre col e tu più sali e la modulazione non cambia, normalmente ha solo l'amplificazione. Ok, chi c'era qua poi in questo canale? Avanti Gianni Capiro, se mi fai sentire anche a Claudio, tuo figlio, così volevo sentire la sua radio. La radio è pure troppo potente, no, già sta andando bene, è chiaro, poi tuo padre un pochettino forse c'ha una voce più corposa, più coso, pure troppo ce n'è. No, va bene, spingete parecchio, la cosa mi meraviglia perché migliorato anche il segnale, stranamente. 10 watt con la radio. Ah, 10, non sapevo. Ok, dai, c'era l'amico Eugenio, il più forte dei portatori, dei CB di portatore. Allora, che hai dato fuggire Eugenio? Chi c'era poi qua su questo canale? Io quasi all'ascolto, dai. Vabbè, Claudio, non è male, no? No, assolutamente, va benissimo, sono contentissimo. Sì, prima sentivo come una specie di effetto barattolato, o erano le cuffie, sai, che erano magari vicine alla mic e qualcosa si sentiva, rientrava. Adesso ho migliorato, dai. Va bene, riprendete, che tanto sono drumitomi ancora. Tu sei quello del fuso orario, più sì, come sei tu di orario, Marco? No, ormai sono arrivato a più 8, più 9, West Coast. Quindi sei costa ovest, dai, vediamo un pochettino, per cui devi cercare di regolarti bene, tipo, come si chiama, la Bottiri, quella che fa i collegamenti, quella della RAI. Ok, avanti Riccardino, dai, avanti a te il mic. Ok, tienito sempre vicino, al contrario di loro, che loro alzano tanto la voce, dai, finché non ti mettiamo a posto col microfono, dai, quando c'ho 5 minuti lo guardo, mi sono promesso di dartelo, così almeno come arriva l'antenna sei tutto operativo top. Ok, vediamo se Eugenio, il più forte CB di portatore, sei in frequenza. Avanti Eugenio. Dillo forte. Ecco, qua a casa il più forte di CB è Claudio, e tu sei il più forte del portatore, sei il più forte di Buros e Gianni, poi chi ci abbiamo, altri paesi vicini, di Alghero, Angelino, ci sono sempre le stazioni di controllo, tu a portatore sei number one. E poi forse avviso che sono io. E paghi, no, dai, ce n'erano anche altri, dai, vabbè, no, comunque c'è sempre una bella radio, forte, chiara, niente da te, da parte tua ho sempre detto una bellissima radio, considerando che il segnale sei 9,5, dai, e non è per dire 9 più 20 o cosa, è una radio bella, forte e chiara. Buros ti ha superato però adesso, lo sai come segnale. Bruce, io non lo ascolto per niente. Vabbè ragazzi, io ne approfitto per salutarvi, ci sentiamo stasera che devo fare cosa a casa. Ciao, devo mettere molto le mandi. Ciao, già ben sentito, dai, buona carica. Avanti Claudio di Sassari e poi Claudio dal Monte di Mur. Va bene, ciao G, dai, ci ascoltiamo le prossime, stavi bene, cordialità e saluti, KK. E mi stavo mettendo a posto un po' di roba, ma già vi stavo ascoltando, sono qua. Non sono più che soddisfatto, il cash stai a 2,20, va bene, la modulazione è ottima. Ce n'è per la truppa, ha voglia. E poi vabbè, domani mattina ti passo quella radio, Roberto, così gliela ritorni a Giovanni e veda lui un po' cosa vuole fare, dai. Figa, non sai cosa ho scoperto qua, cacchio, quell'apparato mi ha dato tu, 101 digita. E cosa hai scoperto? Cacchio, ero convinto che fosse un ricettrasmettitore, invece è solo un ricevitore, cacchio, lo stavo guardando ieri, ho detto, ma perché non ce l'ha detto l'attacco del microfono, invece cacchio, poi ho letto ricevere FR101, ero convinto fosse un ricettrasmettitore, lo sai? No, si parlava anche letto. Quello è il 101 digital, quello è un ricevitore, HF. L'altro invece era il 101, c'ha un altro nome, non si chiama digital, capito? Ma questo fa la 030, l'ho acceso qualche volta, però non l'ho mai messo a cercare stazioni, lo sai? No, la 030, sì, e c'è anche una bella ricezione. Eia, ok, allora, chi c'era? Riccardo, non so se hai ascoltato a Eugenio per i saluti. Capi, l'hai ascoltato tu a Eugenio? KK, riprendete voi che io sto mettendo a posto qua, come vedi sono anche almeno un 2 metri dal microfono, cioè, riprendi tu Roberto, fai girare, dai. Ok, ma di lì a Muros ce ne sono stati altri CB o solo tu c'eri, Claudio, cioè, scusa Gianni. Sì, ho ragione che sei il numero uno di muro sul capo. Riccardo, sì. Riccardo, sento questa asportante sotto. Avanti che voglio entrare su 10. Boh, chi è arrivato qua sul canale 10? Ma ti ho richiamato, non hai sentito. Sapete, certo, tu c'hai anche un baracchino uguale al mio, parte della Inter, che il 3104 c'hai i Gianni. Sì, nero è, tutto leggermente inclinato è. Sì, con l'interruttore rosso, accende e poi c'hai i tasti up down sotto che sono tipo vetrini, dai, trasparenti quasi verdi. Sì, se funziona, guarda, stasera lo faccio funzionare. E io ci ho abbinato un MS-100, cioè un MS-100, quella baracchino c'ha anche l'eco, lo JBP, lo sai? C'è che da bricco. Un attimo. C'è che da bricco. Registrato, un attimo, sta parlando Capri. A te che c'è Giovanni Brappa, avanti Giovanni, in compagnia mia, di Riccardino e di Capri 2 da Muros, avanti Giovanni. E ho capito, quello di Muros come era sotto, prima lo chiamavo bene, adesso quasi nulla, perché le posso dare una radio di 2, da 2, mi arriva a livello di QRM, non so perché, come copiavo bene Riccardino, adesso non lo copio quasi più a Riccardino, non so perché. Ok, no, diciamo che probabilmente questa spatrizio, perché le interessa, ma a quello ho capito, quella roba, un materiale bellico là, no? Mi ha telefonato lui stesso. E adesso vediamo se viene stasera. Mi ha telefonato stamane, ma stamane io non avevo tempo. Ok, ti rilancio il micro, capa. Si chiama Fabrizio, non Patrizio. Giusto, Fabrizio, giusto. Ok, va bene. Non senti a Capri, quale va più forte di prima? Non è che c'hai problemi tu di antenna, perché anche tu sei leggermente più basso, Giova. Sei 9.40 ed eri 9.45 con quella radio. Guarda che se si è accordato bene. No, io sono come prima, non ho cambiato nulla, né più né meno. Adesso sto parlando vicino al microfono. Il microfono che mi hai dato tu, non so. Diciamo che non arrivo a capire perché quello di Muro non lo ricevo bene, insomma, QRM, quasi coperto dal QRM in poche parole, sono Santiago di circa 3-4, diciamo, e Riccardino ne parliamo, arrivo con un Santiago di 1-1.5 al massimo. Ti ho detto che probabilmente non sei in accordo con l'antenna, perché ti sei abbassato di 5 punti, da 9.40 a 5 sei sceso a 9.40, cioè i picchi adesso sono a 9.40, prima erano a 9.45. Ok, non vorrei che mai hai toccato, ma l'MT3000 c'è collegato? L'MT3000 qua non è collegato, questo è collegato direttamente all'antenna come sempre. Davvero, adesso controllo un attimo, esci a vedere, è collegato, niente, tutto collegato normalmente, tutto normalmente collegato. No, adesso ormai sai qualche cavo messo male, perché adesso i picchi erano 9.45, a momenti c'hai dei cambi di segnale, non capisco perché. Comunque Muros adesso da me ha migliorato di 5 punti, da 9.5 punti che 9.10, adesso c'ha 9.10 pieno. E vabbè, sarà che si è scaldato il baracchino adesso, Ok. E dai, adesso faccio riprendere a Riccardino, perché io adesso vado via, vado a mangiarmi qualcosa. Vi saluto, ciao Giovanni Bracco, ciao Gianni Capri 2, ciao Claudio, tutti e due, Claudio di qua Sparviero, Claudio di Muros e Riccardino. Attendo un attimino il finalino e poi vado via. Ciao ciao. Sono qua Roberto, ma ti andiamo a posto. No vabbè, stavo andando via a Claudio, dai, ci sentiamo stasera magari o più tardi. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao ciao a tutti, buon pranzo, dai, anche a Riccardo. Buon pranzo a tutti, ci sentiamo stasera, dai. Mi ascolti bene Riccardo, tu a me adesso? Sì, aspetta Gianni che stava parlando Riccardo forse. Riccardo, mi ascolti? Ok, va bene, ciao, salutami a Sergio. Cosa stavi dicendo Gianni? Detto, cosa stavi dicendo? Ehi, no, io chiudo, dai, chiudo, ci sentiamo, ci sentiamo stasera se coincide, dai. Adesso lascio questa radio accesa, così scalda, così si riprende bene. Ci sentiamo stasera già, va bene? Comunque mi confermi che anche tu mi senti bene di radio, dai. Ok? D'accordo, ciao Gianni, dai, ci aggiorniamo stasera, un saluto circolare a tutti e buon pranzo, ciao ciao. Ciao ciao, sei bravo. Ciao Giovanni, domani non so se hai sentito Roberto, domani ti porto quella commissione da Roberto e te la ritiri, perché non funziona, non ha né ricezione né trasmissione. Addirittura, bella fregatura. Dai. Giovanni, lì magari hai fatto casino con l'antenna, stazionarie, io non riesco a farla né ricevere né trasmettere, capito? Ho provato con le mie antenne, le mie radio funzionano, quella non riceve e non trasmette, ho provato con Alghero, niente da fare. Quindi devi, vabbè, parla con Roberto, comunque domani mattina io vado a Roberto, tu parla con Roberto, ok? Sì, ciao, mi sa, ma c'è, ma no Patrizio, come si chiama l'amico che sa, che ripara, perché lo devo stasera, lui lo potrebbe riparare. Non ne ha tempo, parla con Roberto, ha già parlato lui con quella persona lì, capito? Non ne ha tempo per fare queste cose, Giovanni, bisogna che la porti da un tecnico, già te lo dice Roberto, per portarla, gliel'ho già detto, qua non ti devo dire niente, ok? Ok, ciao, stanno bene. Ciao Giovanni, al limite ci sentiamo domani mattina, ci vediamo domani mattina, ciao. Va bene, ciao. Prova radio.